24 gennaio. Libertà. La breccia nel filo spinato ce ne dava l'immagine concreta. A porvi mente con attenzione voleva dire non più tedeschi, non più selezione, non lavoro, non botte, non appelli e forse, più tardi, il ritorno. Ma ci voleva sforzo per convincersene e nessuno aveva tempo di goderne. Intorno tutto era distruzione e morte. Il mucchio di cadaveri di fronte alla nostra finestra rovinava ormai fuori della fossa. Nonostante le patate, la debolezza di tutti era estrema. Nel campo nessun ammalato guariva. Molti invece si ammalavano di polmonite e diarrea. Quelli che non erano stati in grado di muoversi o non avevano avuto l'energia di farlo, giacevano torpidi nelle cuccette, rigidi dal freddo, e nessuno si accorgeva di quando morivano. Gli altri erano tutti spaventosamente stanchi. Dopo mesi e anni di lager, non sono le patate che possono rimettere in forza un uomo. Quando a cottura ultimata, Charles ed io avevamo trascinato i 25 litri di zuppa quotidiana dal lavatoio alla camera, dovevamo poi gettarci ansanti sulla cuccetta, mentre Arthur, diligente e domestico, faceva la ripartizione, curando che avanzassero le tre razioni di rabiot pour les travailleurs e un po' di fondo pour les italiens d'à côté. Nella seconda camera di infettivi, anch'essa attigua alla nostra e abitata in maggioranza da tubercolotici, la situazione era ben diversa. Tutti quelli che lo avevano potuto erano andati a stabilirsi in altre baracche. I compagni più gravi e più deboli si spegnevano a uno in solitudine. Vi ero entrato un mattino per cercare in prestito un ago. Un malato rantolava in una delle cuccette superiori. Mi udì, si sollevò a sedere, poi si spenzolò a capofitto oltre la sponda, verso di me, col busto e le braccia rigidi e gli occhi bianchi. Quello della cuccetta di sotto, automaticamente, tese in alto le braccia per sostenere quel corpo. Si accorse allora che era morto. Cedette lentamente sotto il peso. L'altro scivolò a terra e vi rimase. Nessuno sapeva il suo nome. Ma nella baracca 14 era successo qualcosa di nuovo. Vi erano ricoverati gli operati, alcuni dei quali in discrete condizioni. Essi organizzarono una spedizione al campo degli inglesi prigionieri di guerra, che si presumeva fosse stato evacuato. Fu una fruttuosa impresa. Ritornarono vestiti in cachi, con un carretto pieno di meraviglie mai viste: margarina, polveri per budino, lardo, farina di soia, acqua vite. A sera, nella baracca 14 si cantava. Nessuno di noi si sentiva la forza di fare i 2 chilometri di strada al campo inglese e ritornare col carico, ma indirettamente la fortunata spedizione ritornò di vantaggio a molti. La ineguale ripartizione dei beni provocò un rifiorire di industria e di commercio. Nella nostra cameretta, dall'atmosfera mortale, nacque una fabbrica di candele con stoppino imbevuto di acido borico, colate in forme di cartone. I ricchi della baracca 14 assorbivano l'intera nostra produzione, pagandoci in lardo e farina. Io stesso avevo trovato il blocco di cera vergine nell'Electro Magazine. Ricordo l'espressione di disappunto di coloro che me lo videro portar via e il dialogo che ne seguì. «Che te ne vuoi fare?» Non era il caso di svelare un segreto di fabbricazione. Sentii me stesso rispondere con le parole che avevo spesso udite dai vecchi del campo e che contengono il loro vanto preferito, di essere buoni prigionieri, gente adatta, che se la sa sempre cavare. «Ich verstehe verschiedene Sachen», me ne intendo di varie cose. Venticinque gennaio. Fu la volta di Somogyi. Era un chimico ungherese sulla cinquantina, magro, alto e taciturno. Come l'olandese era convalescente di tifo e di scarlattina, ma sopravvenne qualcosa di nuovo. Fu preso da una febbre intensa. Da forse 5 giorni non aveva detto parola. Aprì bocca quel giorno e disse con voce ferma: «Ho una razione di pane sotto il saccone. Dividetela voi tre. Io non mangerò più». Non trovammo nulla da dire, ma per allora non toccammo il pane. Gli si era gonfiata una metà del viso. Finché conservò coscienza, rimase chiuso in un silenzio aspro. Ma a sera, e per tutta la notte, e per 2 giorni senza interruzione, il silenzio fu sciolto dal delirio. Seguendo un ultimo interminabile sogno di remissione e di schiavitù, prese a mormorare Yavol ad ogni emissione di respiro. Regolare e costante come una macchina, Yavol, ad ogni abbassarsi della povera rastrelliera delle costole, migliaia di volte, tanto da far venire voglia di scuoterlo, di soffocarlo, o che almeno cambiasse parola. Non ho mai capito come allora quanto sia laboriosa la morte di un uomo. Fuori ancora il grande silenzio. Il numero dei corvi era molto aumentato, e tutti sapevano perché. Solo a lunghi intervalli si risvegliava il dialogo dell'artiglieria. Tutti si dicevano a vicenda che i russi presto, subito, sarebbero arrivati. Tutti lo proclamavano, tutti ne erano certi, ma nessuno riusciva a farsene serenamente capace. Perché nei lager si perde l'abitudine di sperare, e anche la fiducia nella propria ragione. In lager pensare è inutile, perché gli eventi si svolgono per lo più in modo imprevedibile. Ed è dannoso, perché mantiene viva una sensibilità che è fonte di dolore e che qualche provvida legge naturale ottunde quando le sofferenze sorpassano un certo limite. Come della gioia, della paura, del dolore medesimo, così anche dell'attesa ci si stanca. Arrivati al 25 gennaio, rotti da 8 giorni i rapporti con quel feroce mondo che pure era un mondo, i più fra noi erano troppo esausti perfino per attendere. A sera, intorno alla stufa, ancora una volta Charles, Arthur ed io ci sentimmo ridiventare uomini. Potevamo parlare di tutto. Mi appassionava il discorso di Arthur sul modo come si passano le domeniche a Provencher nei Vosgi, e Charles piangeva quasi quando io gli raccontai dell'armistizio in Italia, dell'inizio torbido e disperato della resistenza partigiana, dell'uomo che ci aveva traditi e della nostra cattura sulle montagne. Nel buio, dietro e sopra di noi, gli 8 malati non perdevano una sillaba, anche quelli che non capivano il francese. Soltanto Somoghi si accaniva a confermare alla morte la sua dedizione. Gennaio. Noi giacevamo in un mondo di morti e di larve. L'ultima traccia di civiltà era sparita intorno a noi e dentro di noi. L'opera di bestializzazione, intrapresa dai tedeschi trionfanti, era stata portata a compimento dai tedeschi disfatti. È uomo chi uccide, è uomo chi fa o subisce ingiustizia. Non è uomo chi, perso ogni ritegno, divide il letto con un cadavere. Chi ha atteso che il suo vicino finisse di morire per togliergli un quarto di pane, è pur senza sua colpa, più lontano dal modello dell'uomo pensante che il più rozzo pigmeo e il sadico più atroce. Parte del nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci accosta. Ecco perché è non umana l'esperienza di chi ha vissuto giorni in cui l'uomo è stato una cosa agli occhi dell'uomo. Noi tre ne fummo in gran parte immuni e ce ne dobbiamo mutua gratitudine. Perciò la mia amicizia con Charles resisterà al tempo. Ma a migliaia di metri sopra di noi, negli squarci fra le nuvole grigie si svolgevano i complicati miracoli dei duelli aerei. Sopra noi, nudi, impotenti, inermi, uomini del nostro tempo cercavano la reciproca morte coi più raffinati strumenti. Un loro gesto del dito poteva provocare la distruzione del campo intero, annientare migliaia di uomini, mentre la somma di tutte le nostre energie e volontà non sarebbe bastata a prolungare di un minuto la vita di uno solo di noi. La sarabanda cessò a notte e la camera fu di nuovo piena del monologo di Somogyi. In piena oscurità mi trovai sveglio di soprassalto. Il Pauvieux taceva. Aveva finito. Con l'ultimo sussulto di vita si era buttato a terra dalla cuccetta. Ho udito l'urto delle ginocchia, delle anche, delle spalle e del capo. La mort lascia ses sons lì, definì Arthur. Non potevamo certo portarlo fuori nella notte. Non ci restava che riaddormentarci. 27 gennaio. L'alba. Sul pavimento, l'infame tumulto di membra stecchite. La cosa Somogyi. Ci sono lavori più urgenti. Non ci si può lavare. Non possiamo toccarlo che dopo di aver cucinato e mangiato. E inoltre, rien de si dégoûtant que le débordement, dice giustamente Charles. Bisogna vuotare la latrina. I vivi sono più esigenti. I morti possono attendere. Ci mettemmo al lavoro, come ogni giorno. I russi arrivarono mentre Charles ed io portavamo Somogyi poco lontano. Era molto leggero. Rovesciamo la barella sulla neve grigia. Charles si tolse il berretto. A me dispiacque di non avere berretto. Degli 11 della Infektionsabteilung fu Somogyi il solo che morì nei 10 giorni. Sertlet, Cagnolati, Tovarovsky, Lackmacher e Dorje, di quest'ultimo non ho finora parlato, era un industriale francese che dopo operato di peritonite si era ammalato di difterite nasale. Sono morti qualche settimana più tardi, nell'infermeria russa provvisoria di Auschwitz. Ho incontrato a Katowice in aprile Schenk e Alcalé in buona salute. Arthur ha raggiunto felicemente la sua famiglia e Charles ha ripreso la sua professione di maestro. Ci siamo scambiati lunghe lettere e spero di poterlo ritrovare un giorno. Avigliana, Torino. Dicembre 1945. Gennaio 1947. Sono Erodo Finati e sono qui per commentare la lettura integrale che abbiamo appena sentito di Se questo è un uomo, di Primo Levi. E dopo aver ascoltato questo libro non si può più essere uguali a prima. Conoscere la tragedia dei campi di concentramento ci fa mettere in guardia nei confronti di noi stessi in primo luogo. La natura umana è tutt'altro che rassicurante e questo al di là delle specifiche responsabilità dei carnefici veri e propri. Primo Levi ha più volte richiamato la nostra attenzione sulla quella che lui chiamava la zona grigia, quella dimensione comune che unisce la vittima al carnefice. Quando io per sopravvivere rubavo il pane al moribondo, entravo nella zona grigia, dichiarò una volta. Primo Levi ci ha fatto capire che il sistema concentrazionario fu concepito da individui simili a noi, da persone che sembravano normali e si sono trasformate in mostri. Questo concetto, poi, alcuni studiosi venuti dopo Primo Levi lo hanno dimostrato. Penso ad esempio a Christopher Browning e al suo testo intitolato Uomini comuni. Analizzando le vite di un battaglione di fucilatori nazisti che operavano dietro le linee della Wehrmacht, Lo storico americano ha scoperto che si trattava di persone ordinarie, niente di eccezionale. E lo stesso Adolf Eichmann, il burocrate dello sterminio, al processo di Gerusalemme, parve a molti osservatori un piccolo mediocre impiegato. Certe congiunture della storia, i totalitarismi, il razzismo e le guerre, sono state sufficienti per buttare giù in un colpo solo secoli di civiltà. Questo aspetto, chiamiamolo antropologico, dell'opera di Primo Levi, è stato messo in luce soltanto negli ultimi anni, grazie anche al libro testamento dello scrittore torinese, I sommersi e i salvati, l'estrema riflessione che Levi ci ha lasciato nel 1986, un anno prima della sua tragica scomparsa, che davvero consiglio a tutti. Fra le numerose testimonianze letterarie sui campi di concentramento nazisti, il contributo di Primo Levi resta comunque il più riflessivo, il più filosofico. Jorge Semprún, nel Grande Viaggio, si sofferma sull'odissea ferroviaria dei deportati. Robert Antelme, nella Specie Umana, descrive la strenua volontà di sopravvivenza dei reclusi. Tadeusz Boronski, nel Paesaggio dopo la battaglia, non esita a raccontare anche gli aspetti più ignobili del massacro. David Rousset, nell'Universo concentrazionario, tratteggia l'organizzazione del lager. Primo Levi, rispetto a questi altri scrittori, senza entrare nei particolari più macabri, riesce a comunicarci il senso profondo della violenza che si respirava fuori e dentro le baracche, facendoci capire in quale modo questa violenza ancora oggi ci riguardi, ci chiami in causa. Nessuno può dire «io non c'entro», è inutile nascondersi dietro un dito. Fra qualche anno non ci saranno più, per ragioni anagrafiche, i testimoni diretti, coloro che vissero sulla loro pelle l'esperienza del lager. E allora cosa potrà accadere? Il rischio è quello di una rottura nella catena del ricordo. E fra 100 anni i resti di Auschwitz potrebbero diventare come le statue di Rapa Nui nell'isola di Pasqua, misteriosi segnali di un passato indecifrabile. E se quelli che appartengono alle generazioni venute dopo non consegneranno il testimone della memoria ai più giovani, davvero avranno avuto ragione i nazisti che tentarono di fare esplodere le camere a gas e i forni crematori prima che i campi fossero liberati. Volevano occultare le prove. Non vi crederanno, dicevano ai deportati. Anche se riuscirete a tornare nelle vostre case, non sarete creduti. Diranno che avete esagerato. Purtroppo, da più parti, gli storici revisionisti sono impegnati a ridimensionare, se non addirittura a negare, lo sterminio amministrativo e industriale, così come è stato definito, di milioni di esseri umani. Ma un libro come quello che avete appena ascoltato impedirà che questo accada. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.